Fermo, non so che fare, così mando tutti a cagare. Non mi resta che il bicchiere, scelto apposta sì per bere. Così se cerco di impazzire, cosa penso di capire? Poi mi metto a rovinare ciò che è già semplice e geniale, come un attimo da assaporare, in un momento da fermare. Piangere e pensare, per forse poi capire ciò che mi volevi dire, ciò che mi volevi dire. Piangere e pensare, per forse poi capire ciò che mi volevi dire, ciò che mi volevi dire. Poi mi metto a rovinare ciò che è già semplice e geniale, come un attimo da assaporare, in un momento da fermare. Sai, il tuo cuore è una tagliola, se solo riuscissi a pensare a cosa, come ragionare. Ma quando balli mi fai impazzire, resto fermo, non so che dire. Ma da domani cambio direzione, esco e non ricordo più il tuo nome. Poi mi metto a rovinare ciò che è già semplice e geniale, come un attimo da assaporare, in un momento da fermare. Ridere, fotografare, parlare e scherzare. Piangere e pensare, per forse poi capire ciò che mi volevi dire, ciò che mi volevi dire. Piangere e pensare, per forse poi capire ciò che mi volevi dire, ciò che mi volevi dire, ciò che mi volevi dire.